Quel muto colloquio era forse tanto più sincero perché sotto ad esso e dentro di esso c'era sempre il profondo desiderio che l'aveva in realtà spinta a tornare a Lowick. Il desiderio era di vedere Will Ladislav. Non sapeva quale utile poteva nascere da un loro incontro. Era inerme. Le erano state legate le mani per impedirle di riparare a qualsiasi torto fosse stato fatto al destino di Will. Ma la sua anima bramava vederlo. Come poteva essere altrimenti? Se una principessa al tempo degli incantesimi avesse visto un quadrupede fra quelli che vivono in mandrie, venire a lei più e più volte con uno sguardo umano che si posava preferibilmente su di lei con aria implorante, a cosa avrebbe pensato nel suo viaggiare? Cosa avrebbe cercato quello sguardo quando le mandrie la superavano? Certo, lo sguardo che l'aveva trovata e che lei avrebbe nuovamente riconosciuto. La vita non sarebbe migliore degli orpelli guardati alla luce della candela e del ciarpame visto alla luce del sole. Se il nostro spirito non fosse toccato dal passato che provoca in lui desiderio e costanza. Era vero che Dorotea voleva conoscere meglio i Fairbrother e soprattutto parlare al nuovo pastore, ma era anche vero che ricordando ciò che Lydgate le aveva detto a proposito di Will Ladislav e della piccola Miss Noble, contava sulla venuta di Will a Lowick per trovare la famiglia Fairbrother. La primissima domenica, prima di entrare in chiesa, lo vide come l'aveva visto l'ultima volta che c'era stata. Solo nel banco del sagrestano, ma quando fu entrata la sua figura era sparita. Nei giorni feriali, quando si recò a trovare le donne della famiglia del pastore, tese invano l'orecchio in attesa di qualche parola che si potessero lasciar sfuggire su Will, ma le parve che Mrs. Fairbrother parlasse di chiunque altro del luogo e fuori, tranne che di lui. Probabilmente qualcuno degli ascoltatori di Mr. Fairbrother a Middlemarch può darsi che lo segua a Lowick qualche volta, non credete? Chiese Dorotea, disprezzandosi un po' per avere un motivo segreto che le suggeriva la domanda. Se sono saggi lo faranno, Mrs. Casabo, disse la vecchia signora. Vedo che date il valore giusto alle prediche di mio figlio. Suo nonno materno era un prete eccellente, ma suo padre era un avvocato, assai esemplare e onesto comunque, il che è uno dei motivi per cui non siamo mai stati ricchi. Dicono che la fortuna è donna e capricciosa, ma talvolta è una donna buona e dà a coloro che lo meritano, come è stato il caso vostro, Mrs. Casebo, che avete dato una parrocchiana a mio figlio. Mrs. Fairbrother si rivolse ai suoi ferri da calza, dignitosamente soddisfatta del suo chiaro, piccolo sforzo di oratoria, ma questo non era ciò che Dorotea voleva sentire. Poverina, non sapeva neppure se Will Ladislaw fosse ancora Middlemarch. E non c'era nessuno a cui osasse chiederlo tranne Lydgate. Ma proprio ora non poteva vedere Lydgate senza mandarlo a chiamare o andarlo a cercare. Forse Will Ladislav, essendo venuto a conoscenza di quello strano bando contro di lui lasciato da Mr. Casebo, aveva creduto opportuno che loro due non si rivedessero. E forse lei aveva torto a desiderare un incontro che altri avrebbero potuto trovare molte buone ragioni per scoraggiare. Eppure lo desidero, giungeva alla fine di quelle sagge riflessioni, naturale come un singhiozzo dopo aver trattenuto il fiato, e l'incontro avvenne, ma in un modo formale del tutto inatteso da lei. Una mattina, verso le 11, Dorotea era seduta nel suo boudoir con una mappa delle terre appartenenti al maniero e altre carte davanti a sé, che le servivano per stabilire con esattezza il suo reddito e le sue mansioni. Non si era ancora messa al lavoro, ma era seduta con le mani incrociate sul grembo e guardava fuori, lungo il sentiero dei tigli, fino ai campi lontani. Ogni foglia era immobile sotto il sole, la scena familiare era immutabile e sembrava rappresentare la prospettiva della sua vita, piena di agio immotivato, immotivato, se la sua energia non riusciva a trovare motivi per agire con ardore. La cuffia da vedova di quei tempi le faceva da cornice ovale al volto e aveva una corona ritta in cima. Il vestito era un esperimento di estrema applicazione di crespo, ma questa pesante solennità dell'abito faceva apparire il suo volto ancora più giovane, con la sua rinnovata freschezza e il dolce, curioso candore dei suoi occhi. La sua fantasticheria fu interrotta da Tantripp, la quale venne a dirle che Mr. Ladislav era da basso e chiedeva il permesso di vedere la signora se non era troppo presto. Lo vedrò, disse Dorotea alzandosi immediatamente. Accompagnalo nel salotto. Il salotto, per lei, era la stanza più impersonale della casa, quella che associava di meno alle tribolazioni della sua vita matrimoniale. Il damasco si intonava con gli oggetti in legno, che erano tutti bianchi e dorati. C'erano due specchi alti e tavoli con nulla sopra. In breve era una stanza dove uno non aveva motivo di sedere in un posto piuttosto che in un altro. Era situata sotto il boudoir e aveva anch'essa un bovindo che si affacciava sul viale. Ma quando Pret li accompagnò dentro Will Ladislaw, la finestra era aperta e un visitatore alato, che usciva ed entrava ronzando senza far caso ai mobili, faceva sembrare la stanza meno convenzionale e deserta. Felice di rivedervi qui, signore, disse Pret, indugiando per sistemare una persiana. Sono venuto solo per accomiatarmi, Pret, disse Will, il quale desiderava che persino il maggiordomo sapesse che egli era troppo orgoglioso per ronzare attorno a Mrs. Casabo, adesso che era una ricca vedova. Mi spiace molto di sentirvelo dire, signore, disse Pret, ritirandosi. Naturalmente, nella sua veste di servitore, al quale non si doveva dire nulla, egli conosceva il fatto di cui Ladislav era ancora all'oscuro e aveva tratto le sue conclusioni. In effetti, egli aveva concordato con la fidanzata Tantripp su quanto questa aveva detto. Il tuo padrone era geloso come un demonio e senza nessun motivo. La signora guarderebbe più in su di Mr. Ladislav, altrimenti io non la conosco. La domestica di Mrs. Cadwallader dice che sta per arrivare un lord che la deve sposare quando il periodo del lutto sarà finito. Willa non ebbe molto tempo per aggirarsi nella stanza col cappello in mano prima che Dorothea entrasse. Questo incontro fu assai diverso dal primo a Roma, quando Will si era sentito imbarazzato e Dorothea era calma. Questa volta egli si sentiva triste, ma deciso, mentre lei era in uno stato di agitazione che non si poteva nascondere. Appena fuori della porta aveva avvertito che questo incontro, tanto desiderato dopo tutto, era troppo difficile e quando vide Will venirle incontro, arrossì intensamente con penosa rapidità, cosa per lei rara. Nessuno di due si rese conto del motivo, ma nessuno parlò. Lei gli porse la mano per un attimo e poi andarono a sedersi vicino alla finestra, lei in un divano e lui in un altro di fronte. Will era particolarmente imbarazzato. Gli parve che non fosse nel carattere di Dorothea che il semplice fatto di essere vedova provocasse un simile mutamento nel suo modo di riceverlo. Ed egli non conosceva nessun'altra condizione che avrebbe potuto influire sui loro precedenti rapporti reciproci, a meno che, come la sua fantasia una volta gli suggerì, gli amici non l'avessero avvelenato alla mente di sospetti nei suoi confronti. Spero di non aver osato troppo facendovi visita, disse Will. Non potevo sopportare il pensiero di lasciare il posto e cominciare una nuova vita senza vedervi per salutarvi. Osato? Certamente no. L'avrei giudicato scortese se non aveste desiderato vedermi, disse Dorothea. La sua abitudine di parlare con perfetta franchezza si impose a tutta la sua incertezza ed agitazione. Partirete immediatamente? Molto presto, credo. Intendo andare a Londra e studiare d'avvocato, dato che, come dicono, quella è la preparazione per ogni attività pubblica. Fra poco ci sarà un sacco di lavoro politico da fare e io intendo tentare di svolgerne un po'. Altri uomini sono riusciti a raggiungere una posizione onorevole senza l'aiuto di famiglia o di denaro. E questo lo renderà ancora più onorevole, disse Dorothea con ardore. Inoltre possedete tante doti. Ho sentito da mio zio come parlate bene in pubblico, al punto che tutti sono dispiaciuti quando smettete e con quale chiarezza riuscite a spiegare le cose. E vi preme che a tutti sia resa giustizia. Ne sono così felice. Quando eravamo a Roma, pensavo vi piacesse solo la poesia e l'arte e le cose che abbelliscono la vita per noi che siamo benestanti. Ma ora so che vi interessate del resto del mondo. Nel parlare, Dorothea si era liberata dell'imbarazzo ed era tornata quella di prima. Rivolgeva a Will uno sguardo diretto, pieno di deliziosa fiducia. Approvate che me ne vada via per anni, allora, e che non ritorni più qui finché non abbia avuto un certo successo nel mondo? Chiese Will, cercando intensamente di conciliare il massimo dell'orgoglio col massimo sforzo per ricavare l'espressione di un sentimento profondo da parte di Dorothea. Lei non si rese conto di quanto tempo passò prima di rispondergli. Aveva girato il capo e stava guardando fuori dalla finestra ai cespugli di rose che sembravano contenere l'estate di tutti gli anni in cui Ladislav sarebbe stato assente. Questo non era un comportamento giudizioso. Ma Dorothea non si curava mai di studiare i suoi modi, pensava solo di chinarsi alla triste necessità di separarsi da Will. Quelle prime parole che lui aveva usato per spiegare le sue intenzioni erano sembrate chiarirle tutto. Egli era a conoscenza, così supponeva, della condotta finale di Mr. Casaubon nei suoi confronti, e questa aveva suscitato in lui lo stesso genere di emozione violenta provato da lei. Egli non aveva mai nutrito altro che un senso di amicizia per lei. Non gli era mai passato nulla per il capo da giustificare ciò che lei pensava fosse il risentimento del marito per i sentimenti di entrambi. E quell'amicizia, egli la sentiva ancora. Qualcosa che si può definire un silenzioso singhiozzo interiore era scoppiato in Dorotea, prima che dicesse con voce pura, appena tremante nelle ultime parole, quasi fosse solo per la liquida flessibilità della sua voce. Sì, deve essere giusto che facciate come dite. Sarò assai felice quando verrò a sapere che vi siete fatto stimare, ma dovete avere pazienza, forse ci vorrà molto tempo. Will non seppe mai bene cosa lo trattenesse dal gettarsi ai suoi piedi, quando quel molto tempo fu pronunciato con quel suo dolce tono tremulo. Era solito dire in seguito che molto probabilmente quel colore e quella superficie orribili del suo abito di crespo esercitarono la forza frenante sufficiente. Comunque, rimase seduto immobile e disse solo: «Non riceverò mai notizie da voi, e voi dimenticherete tutto di me». «No», disse Dorotea, «non vi scorderò mai». Non ho mai dimenticato nessuno una volta che l'ho conosciuto. La mia vita non è mai stata movimentata e non sembra probabile che lo sarà. E poi ho molto spazio per i ricordi a Lowick, non vi pare? Sorrise. Gran Dio! Will esclamò con voce appassionata, alzandosi col cappello ancora in mano e dirigendosi verso un tavolo di marmo, dove all'improvviso si voltò e appoggiò la propria schiena contro di esso. Il sangue gli era salito alla faccia e al collo e aveva quasi un aspetto adirato. Gli sembrava che essi assomigliassero a due persone che si trasformavano lentamente in marmo l'una alla presenza dell'altra, mentre i loro cuori erano consapevoli e i loro occhi anelanti. Ma non c'era nulla da fare. Non si sarebbe mai detto di lui che durante questo incontro, a cui era giunto con aspra risolutezza, avesse concluso col farle una confessione che si sarebbe potuto interpretare in una richiesta del suo patrimonio. Per di più, era effettivamente vero che aveva paura dell'effetto che una simile confessione avrebbe potuto avere su Dorotea stessa. Lei lo guardò da quella distanza, un po' preoccupata, immaginando che nelle sue parole ci fosse potuto essere qualcosa di offensivo, ma per tutto il tempo fu percorsa dal pensiero della sua probabile mancanza di denaro e dalla propria incapacità di aiutarlo. Se lo zio fosse stato a casa, sarebbe potuto fare qualcosa tramite suo. Fu questa preoccupazione per la sofferenza di Will bisognoso di denaro, mentre lei possedeva ciò che avrebbe dovuto essere la sua parte, che la spinse a dire, visto che egli non parlava e distoglieva lo sguardo da lei. «Mi chiedo se vi piacerebbe avere quella miniatura che è appesa di sopra. Intendo dire, quella stupenda miniatura di vostra nonna. Penso che non sia giusto che la tenga io, se desiderereste averla voi. È sbalorditivo come vi somiglia». «Siete molto buona», disse Will in tono irritato. «No, non mi interessa. Non è molto consolante avere il proprio ritratto. Sarebbe più consolante se altri desiderassero averlo». «Pensavo che avreste gradito osservarne il ricordo, pensavo». Dorotea si interruppe in un attimo quando la sua immaginazione all'improvviso l'ammonì di tenersi lontana dalla storia della zia Giulia, che certamente vi sarebbe piaciuto avere la miniatura come ricordo di famiglia. Perché dovrei averla quando non ho nient'altro? Un uomo che ha soltanto una valigia dove riporre le proprie cose deve tenersi i ricordi in testa. Will parlò a casaccio. Stava semplicemente dando sfogo alla propria insolenza. Era una cosa un po' troppo esasperante sentirsi offrire in quel modo il ritratto di sua nonna, ma i sentimenti di Dorotea, le sue parole provocarono una particolare fitta. Si alzò e disse con una punta di indignazione, oltre che di altezzosità: «Voi siete di gran lunga il più fortunato di noi due, Mr. Ladislav, a non avere nulla». Ciò fece trasalire Will. Quali che fossero le parole, il tono aveva l'apparenza di un congedo e, lasciata la tavola a cui era appoggiato, fece qualche passo in direzione di lei. I loro occhi si incontrarono, ma con una strana gravità interrogativa. Qualcosa teneva i loro pensieri separati e ciascuno era lasciato a congetturare cosa ci fosse nell'altro. Will in realtà non aveva mai pensato di vantare dei diritti ereditari sulla proprietà di Dorotea e avrebbe avuto bisogno di un racconto per poter capire ciò che lei attualmente provava. «Fino ad ora non mi ero mai sembrato una disgrazia non avere nulla», disse, «ma la povertà può essere brutta come la lebbra se ci separa da ciò che più amiamo». Le parole straziarono il cuore di Dorotea e la fecero addolcire, rispose con un tono di triste amicizia. «La tristezza si presenta in tante forme», 2 anni fa non ne avevo alcuna idea. Intendo dire del modo inaspettato in cui giunge la sofferenza e ci lega le mani e ci rende muti quando desidereremo parlare. Ero solita disprezzare un po' le donne perché non davano una forma migliore alla propria vita e non facevano cose migliori. Mi piaceva assai fare a modo mio, ma ci ho quasi rinunciato, concluse sorridendo in maniera scherzosa. Io non ho rinunciato a fare come mi pare, ma posso farlo molto di rado, disse Will. Era a 2 metri da lei, con la mente piena di desideri e decisioni contraddittori. Desiderava qualche prova indiscutibile che lei lo amava, eppure aveva paura della posizione in cui una simile prova poteva metterlo. Ciò che uno brama di più. Può essere circondato da condizioni che sarebbero intollerabili. In quel momento Pratt entrò e disse: Sir James Chatham è nella biblioteca, signora. Chiedete a Sir James di venire qui, disse immediatamente Dorothea. Fu come se la stessa scossa elettrica fosse passata attraverso lei e Will. Ciascuno di essi sentì una resistenza orgogliosa e nessuno guardò l'altro mentre attendevano l'ingresso di Sir James. Questi, dopo aver stretto la mano a Dorothea, si inchinò il meno possibile a Ladislav, che lo ripagò esattamente con lo stesso genere di inchino e poi, andando verso Dorothea, disse: Devo salutarvi, Mrs. Casaboy, probabilmente per un lungo periodo di tempo. Dorothea gli tese la mano e lo salutò cordialmente. La sensazione che Sir James stesse sottovalutando Will e si comportasse maleducatamente nei suoi confronti destò in lei risolutezza e dignità. Nel suo comportamento non c'era alcuna confusione. E quando Will fu uscito dalla stanza, guardò Sir James con una tale calma padronanza di sé, dicendo: Come sta, Celia? Che egli fu obbligato a comportarsi come se nulla lo avesse irritato. E a cosa sarebbe servito comportarsi altrimenti? In effetti, Sir James rifuggiva con tale antipatia dall'associare anche solo mentalmente Dorothea con Ladislav come suo possibile innamorato, che egli stesso avrebbe voluto evitare un'esibizione esteriore di dispiacere che avrebbe ammesso la sgradevole possibilità. Se qualcuno gli avesse chiesto perché si ritraeva in quel modo, non sono certa se dapprima non avrebbe detto qualcosa di più completo o preciso di quell'Ladislav, sebbene riflettendoci avrebbe potuto insistere che il codicillo di Mr. Casabo, vietando il matrimonio di Dorothea con Will, se non con il rischio di perdere l'eredità, era sufficiente a rendere disdicevole nel modo più assoluto ogni loro rapporto. La sua avversione era tanto più forte in quanto non si sentiva in grado di intromettersi. Ma Sir James rappresentava un potere che neppure lui immaginava. Entrando in quel momento, egli era l'incarnazione dei motivi più potenti per i quali l'orgoglio di Will, tenendolo separato da Dorothea, diventava una forza repulsiva. Capitolo 55. Se la giovinezza è la stagione della speranza, spesso lo è solo nel senso che le persone più anziane nutrono speranze su di noi, perché nessuna età, come la giovinezza, è soggetta a pensare che le sue emozioni, le separazioni e le decisioni siano le ultime del loro genere. Ogni crisi sembra definitiva semplicemente perché è nuova. Ci dicono che gli abitanti più anziani del Perù non cessano di essere agitati dai terremoti, ma essi probabilmente vedono al di là di ogni scossa e riflettono che ne devono venire ancora molte altre. A Dorothea, ancora in quel periodo della giovinezza in cui gli occhi con le lunghe ciglia folte guardano fuori, dopo la loro pioggia di lacrime, puri e non affaticati come una passiflora apertasi di recente, quel mattino la separazione da Will Ladislav parve essere la fine dei loro rapporti personali. Egli stava per entrare nella distanza di anni ignoti e se mai fosse tornato sarebbe stato un altro uomo. Il suo effettivo stato d'animo, la sua orgogliosa risoluzione di smentire in anticipo ogni sospetto che egli volesse sostenere il ruolo dell'avventuriero bisognoso alla ricerca di una donna ricca, era completamente al di fuori della portata dell'immaginazione di lei. E Dorothea aveva interpretato assai facilmente tutto il suo comportamento alla luce della supposizione che il codicillo di Mr. Casebo gli sembrasse, come sembrava anche a lei, un volgare e crudele interdetto a una qualsiasi profonda amicizia fra di loro. Il giovane diletto di parlarsi e di dire ciò che a nessun altro sarebbe interessato dire era cessato per sempre e divenuto un tesoro del passato. Proprio per questa ragione indugiò su di esso senza alcun freno interiore. Anche quell'unica felicità era morta e nella sua camera silenziosa e in ombra e poteva dare sfogo a quel dolore appassionato di cui lei stessa si stupiva. Per la prima volta staccò la miniatura dal muro e la tenne di fronte a sé, provando piacere nel confondere la donna che era stata giudicata troppo duramente col nipote, che il suo cuore e la sua mente difendevano. Chiunque ha gioito della tenerezza di una donna può forse giudicare una vergogna per lei il fatto che prendesse la piccola pittura ovale nel proprio palmo e qui le facesse un giaciglio e vi appoggiasse sopra la guancia, come se ciò placasse la persona che aveva sofferto di un'ingiusta condanna. Allora lei non sapeva che era stato l'amore a venire da lei brevemente, come in un sogno prima di destarsi, con i colori del mattino sulle ali, che era l'amore a cui lei diceva addio fra i singhiozzi, mentre la sua immagine era bandita dal rigore innocente del giorno inarrestabile. Sentì solo che vi era qualcosa di irrevocabilmente errato e perduto nel proprio destino, e i suoi pensieri sul futuro assunsero più decisamente la forma di una decisione. Le anime ardenti, pronte a costruire la propria esistenza futura, sono soggette ad affidarsi alla realizzazione delle proprie visioni. Un giorno in cui si recò a Freshitt per mantenere la promessa di trattenersi tutta la notte e di assistere al bagnetto del bambino, Mrs. Cadwallader venne a cena, poiché il pastore era andato in gita a pescare. Era una serata calda e persino nel delizioso salotto, dove l'antico e fine tappeto erboso digradava dalla finestra aperta verso un laghetto di ninfee e poggioli fittamente alberati, il caldo era sufficiente a indurre Celia, con la sua mussolina bianca e i riccioli leggeri, a riflettere con compassione su quello che doveva provare Dodo col suo vestito nero e la cuffia chiusa. Ma ciò non avvenne finché non furono terminate alcune operazioni col bambino che le lasciarono la mente serena. Era seduto da un po' e aveva raccolto un ventaglio quando disse con la sua tranquilla voce gutturale: «Cara Dodo, butta via quella cuffia, ti prego, sono sicura che il tuo vestito ti deve far stare male». «Sono così abituata alla cuffia, è diventata una specie di guscio», disse Dorotea sorridendo. «Mi sento alquanto spoglia e scoperta quando non l'ho». «Devo vederti senza, fa sentire il caldo a tutti», disse Celia, posando il ventaglio e dirigendosi verso Dorotea. Era un bel quadretto vedere questa piccola signora in mussolina bianca slacciare la cuffia da vedova alla propria sorella più maestosa e scagliarla su una sedia. Proprio quando i rotoli e le trecce di capelli castanoscuri erano stati liberati, Sir James entrò nella stanza, guardò il capo scoperto e fece «Ah!» in tono di soddisfazione. «Sono stata io a farlo, James», disse Celia. «Non è necessario che Dodo si faccia così schiava del proprio lutto. Non c'è più bisogno che porti quella cuffia fra i propri parenti». «Mia cara Celia», disse Lady Chatham, «una vedova deve portare il lutto almeno un anno». «Se si sposa prima della fine dell'anno, no», disse Mrs. Cadwallader, la quale trovava un certo piacere nello scandalizzare la sua buona amica, la vecchia madre del baronetto. Sir James ne fu irritato e si piegò in avanti per giocare col cane maltese di Celia. «Ciò accade assai di rado, suppongo», disse Lady Chatham con un tono che si proponeva di mettere in guardia da simili avvenimenti. «Nessuna nostra amica si è mai comportata in quel modo tranne Mrs. Beaver». E fu un gran dolore per Lord Grinsell quando lo fece. Il suo primo marito era sgradevole, il che suscitò uno stupore ancora più grande. E severamente lei ne venne punita. Dissero che il capitano Beaver la trascinava qua e là per i capelli e le puntava addosso delle pistole cariche. «Oh, si è preso l'uomo sbagliato», disse Mrs. Cadwallader, che era di un umore decisamente perverso. «Il matrimonio allora è sempre brutto, che si tratti del primo o del secondo. La priorità è un misero merito in un marito se non ne ha altri. Preferirei avere un buon secondo marito piuttosto che un primo mediocre. Mia cara, vi lasciate trasportare dalla vostra lingua intelligente», disse Lady Chatham. «Sono certa che sareste l'ultima donna a risposarvi prima del tempo se ci fosse tolto il nostro caro pastore». «Oh, io non faccio giuramenti. Potrebbe essere una misura economica necessaria. È legittimo risposarsi, suppongo, altrimenti tanto varrebbe che fossimo indù invece di cristiani. Naturalmente, se una donna accetta l'uomo sbagliato, deve subirne le conseguenze e una che lo fa due volte si merita il suo destino. Ma se può sposare una donna nobile, bella e coraggiosa, Quanto prima, tanto meglio. Penso che l'argomento della nostra conversazione sia stato scelto male, disse Sir James con un'occhiata di disgusto. Vediamo di cambiarlo. Non per me, Sir James, disse Dorothea, decisa a non lasciarsi sfuggire l'occasione di liberarsi da certi riferimenti tortuosi a matrimoni eccellenti. Se intervenite a mio favore, vi posso assicurare che nessun argomento mi può essere più indifferente ed estraneo di un secondo matrimonio. A me non interessa più che ne parlaste di donne che praticano la caccia alla volpe, che sia una cosa da ammirare in loro oppure no. Io non le imiterò. Vi prego, lasciate che Mrs. Cadwallader si diverta su quell'argomento come su qualsiasi altro. Mia cara Mrs. Casaubon, disse Lady Chatham con la sua massima imponenza, voi non penserete, spero, che si facesse una qualsiasi allusione a voi quando ho ricordato Mrs. Beaver. Era solo un esempio che mi è passato per la mente. Lei era figliastra di Lord Grinsell. Lui sposò Mrs. Stivory in seconde nozze. Non ci poteva essere la minima allusione a voi. Oh no, disse Celia, nessuno ha scelto l'argomento. È venuto tutto dalla cuffia di Dodo. Mrs. Cadwallader ha detto solo ciò che era verissimo. Una donna non si potrebbe sposare con la cuffia da vedova, James. Zitta, mia cara, fece Mrs. Cadwallader. Non voglio arrecare nuovamente offesa. Non mi riferirò neppure a Didone o a Zenobia. Solo di cosa dobbiamo parlare? Io per parte mia mi rifiuto di discutere della natura umana, perché questa è la natura delle mogli dei pastori.